Bentornati ragazzi, Old Time Rock and Roll Radio F, dimmi. Hai trovato il cuscino? Non l'ho trovato il cuscino. L'hai spento il telefono? Sì, l'ho spento il telefono. Ciao ragazzi, quindicesima bentornati. No, vedi, sbagliato. Vedi, mi sembrava infatti, sedicesima. Chi ce l'ha lasciato il 15? Io, colpa mia. Colui che non sbaglia niente. Allora, no. Prima di iniziare ragazzi, vorremmo ringraziare e salutare Alice che ci ha parlato di economia e di aziende, sviluppo, tutto una cosa abbastanza tragica, insomma, al giorno d'oggi. No, no, scherziamo, la ringraziamo, è stata bravissima. E niente, iniziamo con la 16ª puntata All Time Rock and Roll. Compleanno di uno. Un compleanno. Precisamente Steph Burns, nome d'arte di Stefan Brimbaum, nato a Oakland il 26 giugno del 59. È un chitarrista statunitense cresciuto al Walnut Creek, dove ha frequentato la Norgate High School dal 1933. È il chitarrista di Blasco Vasco Rossi. Oh, in concerto tra le altre cose ora. Sì, infatti, stasera a Bologna fra l'altro. Se non mi sa che mio babbo ci va. Nova, con la bandana. È partito. Torna stanotte alle 5. Bandana e cravattino legato intorno alla tenda. Grande Elvio. Siamo solo noi. Siamo solo noi. Andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso. dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi, quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la gente. Siamo solo noi, quelli che ormai non credono più a niente, vi fregano sempre. Vasco Rossi con Siamo Solo Noi. Vado. E adesso posso andare? Me fai di qui che devo dire? Dillo, ah, dillo. La quarta e ultima parte della storia del 1969. A lei, Patruzzi, prego. Grazie. Per la prima, non per la prima, forse per la seconda volta parlo io dei Beatles. Mi sembra, perché non ho mai parlato dei Beatles. Perché di solito chi lo fa? Te. Ah. Se gli togli i Beatles, mamma mia, man depressione. Comunque, Don't Let Me Down, parliamo di questa canzone scritta appunto dai Beatles, da John Lennon, accreditata a Lennon e McCartney, nuova, pubblicata nel 1969 per l'appunto come lato B del singolo contenente Get Back sul lato A, che era in puntata settimana scorsa. Grazie, grazie Valerio. È una struggente canzone d'amore dedicata a Yoko Ono, considerata un capolavoro minore. Il brano fu registrato durante la sessione di prova per il progetto multimediale denominato inizialmente Get Back e poi abbandonato ed incompiuto, anche se poi sorprendentemente Phil Spector, il produttore a cui fu affidato il compito di ripescare i nastri per riassemblarli, non inserì la canzone nell'album che vedrà le stampe con il titolo di Let It Be. Restò memorabile dunque E comunque la performance di Don't Let Me Down effettuata dal vivo sul tetto della Apple il giorno del 30 gennaio del 1969. Questa canzone, come molte altre dei Beatles, è usata come sottofondo nella serie The Better Way. E adesso Don't Let Me Down, Beatles. She does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me. Yes, she does. Me. State. Salve, bentornati. Beatles, Don't Let Me Down. Adesso parliamo di... Che scaletta c'hai te, Patro? Io la mia. No, perché dovete sapere che io la modifico. Cioè, la scrivo un po' più grande perché sto invecchiando e devo fare un paio d'occhiali. Patru, lo faccio anch'io, tranquillo. Grazie. Ma te hai scambiato le pagine, no, te lo dico. Ho girato la pagina. Vedi? Allora siamo qui. Siamo. Sì. Lo so. E perché mi indicavi la canzone dopo? No, non ti indicavo la canzone dopo. Anche tu stai diventando vecchio. Standing. Io boh, stiamo invecchiando tutti. Va bene, va bene. Tanto la gente non gliene frega niente. Adesso vi parliamo dei Led Zeppelin. Torniamo a parlare del dirigibile e della canzone Dazed and Confused. È un brano dell'artista folk Jake Holmes, meglio conosciuto nella versione del gruppo inglese Led Zeppelin, contenuto nel loro primo album, appunto, Led Zeppelin. E il gruppo americano ha registrato la loro versione di Dazed and Confused nell'ottobre del 1968 agli Olympic Studios di Londra e il brano fu incluso nell'album di debutto omonimo pubblicato il 12 gennaio 69. Il brano comincia con una memorabile linea di basso discendente di John Paul Jones, accelera fino all'intermezzo strumentale nel quale Jimmy Page crea atmosfere rarefatte grazie all'utilizzo dell'archetto di violino, per poi sfociare in un rabbioso assolo di chitarra molto simile a quello che lo stesso Page aveva registrato in Think About It con gli Yardbirds, prima di ritornare al tema iniziale. Dazed and Confused è uno dei tre brani dei Led Zeppelin in cui Jimmy Page fa uso dell'archetto del violino sulla sua chitarra, incredibile, insieme a How Many More Times e In The Light. Led Zeppelin, Dazed and Confused. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created. Yeah. Led Zeppelin, Dazed and Confused. Adesso andiamo a parlare degli Elephant, che sono stati una breve storia di vita americana per il loro singolo Gimme Gimme Good Lovin'. Il loro nome prende spunto da Crazy Elephant, che non era altro che un losco monolocale creato da Jerry Katznetz, giusto? Si legge così? Kazens. Ah, e io Jeff... leggerei Kazens. Poi... Kazens. E Jeff Katz. Tutti z. Della Super K Production. Il bassista di Gimme Gimme Good Lovin' era Gary Gaynor, che non c'entra niente con Gloria Gaynor, un musicista di studio che ha lavorato anche con Laura Nero. Elephant, Gimme Gimme Good Lovin'. From Atlanta, Georgia. Erano gli Elephant con Gimme Gimme Good Love. I tecnici ci guardano. Buona. Che te ne prendo un sorso. Prendi. Che bravi i tecnici, che bravi. Che bravi. Che bravi. Ecco l'altro, vabbè. Era Gimme Gimme Good Lovin'. Adesso andiamo a parlare del re Elvis Presley e della sua canzone In the Ghetto, delle più famose. Esatto. Mi dici perché c'è scritto In the Ghetto qui sotto? Mi dici perché continuate a interrompermi? Se lo dico dopo non vale più. In the Ghetto. Boh. È uguale, dai. È più vabbè. In the Ghetto, un noto brano appunto interpretato da Elvis Presley, composto nel 1969 da Mac Davis e pubblicato come singolo nello stesso anno, in abbinamento con Any Day Now sul lato B. La canzone originariamente si intitolava The Vicious Circle, cioè il circolo vizioso, non so se l'ho pronunciata bene, però sì, vabbè. Sì. Con un evidente rimando al significato del testo del brano, che racconta la storia di un giovane ragazzo di colore nato nel ghetto di Chicago, cresciuto tra mille difficoltà e pericoli, rubando, combattendo per poter sopravvivere. Un giorno si procura una pistola, ruba un'auto e cerca di scappare, ma viene ucciso proprio quando un altro bambino sta venendo alla luce, molto probabilmente con lo stesso destino di violenza già scritto anche per lui. Si tratta di un pezzo importante nella discografia elvisiana. Sì, elvisiana, ok. Una delle rarissime volte... Mi interrompete per favore, sennò non riesco ad andare avanti. Va bene. Autointerrompiti. Grazie. Sta facendo da solo. Una... Noi possiamo tranquillamente stare zitti. Posso? Grazie. Prego. Ah, una delle rarissime volte nelle quali si cimenterà con un brano dal testo a fondo sociale. Più o meno nello stesso periodo incise anche If I Can Dream, altro esempio di canzone impegnata. Alla sua pubblicazione il 15 aprile del 1969, il singolo raggiunse la terza posizione nella classifica negli USA, dove venne premiato con il disco d'oro, cioè 500.000 copie vendute. Noi ci sta il disco rotto. Giusto? Vero. Sì. Inoltre entrò nella top 10 del Regno Unito e divenne il primo brano di Presley a salire al numero 1 in classifica in Germania. Non male. Elvis Presley, In the Ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama In the Ghetto di Elvis Presley, detto anche The King, il re. E adesso ragazzi, per un attimo stoppiamo la rubrica della storia del rock del 1969 ed apriamo il contest, il concorsone, e leggiamo le nostre canzoni, le vostre canzoni. Esatto, le nostre canzoni, le cinque canzoni che abbiamo messo sulla pagina Facebook. Attenzione, perché per la prima volta c'è un pari merito. Esatto, perché stavo per dire, metteremo la vincente, invece metteremo le vincenti. Le vincenti, sono due. Esatto, allora iniziamo con dire quali sono le canzoni, o meglio quali erano le canzoni. Bindi, la tua canzone? De Who, Babbo Riley. John Lennon. Scusa se ti ho svegliato, John Lennon. Figurati. Masa. John Lennon. Composta. Immagine. È Imagine, magari. Immagine. Non mi ricordo, sai. Io avevo Michael Jackson con Bad. Io avevo messo Nirvana. Smell Like Teen Spirit, giusto? Sì, esatto. Io avevo scelto i Police con Message in a Bottle. E le vincenti sono le vostre due. Le ultime due, esatto, Smeglade Spirit, Nirvana e i Police, che adesso andremo a proporvi. Contest, eh? Che belle canzoni. Vinto noi. Erano Nirvana e dei Police, le due canzoni vincenti di questa settimana del contest. Parino, il Masa a zero ancora. Sì, è vero. E adesso che fare della canzone? Non lo so. Si chiese John Lennon con Come Together. L'aveva scritta di getto, come spesso accadeva in quegli anni fecondi. Di ghetto l'aveva scritta. Era prima Elvis, The King. E sua moglie Rosemary erano andate a trovare lui e Yoko al Queen Elizabeth Hotel di Montreal, nella stanza al 19° piano dove tenevano il famoso bed in a favore della pace. Erano stati carini e John li aveva anche prontamente reclutati per il coro di Give Peace a Chance. Tutto questo lo avevamo trattato qualche puntata fa. Sì, esatto. In quell'occasione Leary aveva chiesto a John se avesse una canzone adatta a diventare lo slogan della sua campagna elettorale per diventare governatore della California. John aveva sorriso. Sapeva bene che Leary era un pazzo e che la sua candidatura contro Ronald Reagan, che poi diventerà presidente degli Stati Uniti, era nient'altro che una provocazione, al pari di quanto aveva proposto di mettere grandi quantità di LSD nell'acquedotto di San Francisco. Però si era comunque lasciato coinvolgere. Aveva preso lo slogan di Leary, Come Together, Join the Party, e ne aveva fatto una canzone. Gli piaceva il doppio senso perché party significa tanto festa che Partito Democratico, e l'invito a unirsi al party aveva dunque una doppia valenza, sociale e ludica. Dopo pochi giorni però, e dopo che Leary l'aveva già fatta trasmettere dalle radio alternative di San Francisco, Lennon si era posto qualche domanda di troppo. Leary era simpatico ma inaffidabile e presto sarebbe finito in carcere e condannato a 20 anni per possesso illegale di marijuana, perché in America mica scherzano con le droghe, insomma. E quella canzone poteva funzionare a patto di cambiarne il testo. Non era dunque meglio darla ai Beatles? Lennon si rispose di sì ed entrò nella session di Abbey Road con la canzone sotto braccio, dopo aver cambiato il testo e aggiornato qualche nonsense tipico dei suoi, e anche qualche obliquo riferimento ai compagni di band. Il santo tirasassi del testo è Harrison, mentre il tricheco con gli stivali di gomma è Paul. E Leary si arrabbiò e non poco, ma John rispose garbatamente, lui era un sarto e Leary un cliente. Ora che non aveva più bisogno del vestito, perché non sarebbe mai diventato governatore della California, poteva venderlo a qualcun altro, senza alcun senso di colpa. Beatles, Come Together. Come Together, Beatles. Adesso vi parliamo dei Rolling Stones e come sempre sono infinite le storie che circonda questo gruppo. E in particolar modo la canzone You Can't Always Get What You Want. E non basterebbe un'ora per raccontarle tutte. E neanche per dire il titolo. Noi, noi ci limiteremo ad alcune. Jagger la scrisse alla chitarra acustica, ma fu pubblicata solo come lato B di Honky Tonk Woman, leggermente accorciata. Il London Bedshire, che funge dal coro del brano ed è formato da 60 bambini, tentò di togliere il proprio nome dai crediti dell'album quando seppe che si intitolava Let It Bleed, Lascia che sanguini, e che conteneva un brano sullo strangolatore di Boston, Midnight Rambler. È la canzone che viene suonata al funerale di Alex, l'indimenticabile scena iniziale del Grande Freddo. Nella versione originale non c'è Charlie Watts, perché è incapace di seguire quel ritmo atipico e irregolare. Alle registrazioni stava assistendo il produttore Jimmy Miller, che a un certo punto disse a Watts: «Guarda, ti faccio vedere io». Watts replicò: «Suona la tua allora», e lasciò la sala. Gli Stones non fecero una piega. Invitarono Miller alla batteria e sostituirono Watts. Ma la storia più bella che riguarda questo brano ha a che fare con il Mr. Jimmy, citato in una strofa. Non è Jimmy Miller, all'epoca produttore delle pietre rotolanti. Si tratta bensì di Jimmy Hatmaker, un ragazzo leggermente disabile di Excelsior, un paese del Minnesota dove gli Stones fecero tappa nel 64 per un concerto. Mick Jagger entrò in un drugstore a comprare una Cherry Coke che, prima di essere testata da un'azienda ben più famosa, sempre produttrice di cola, nel 1982 e poi commercializzata nell'85, era una semplice cola alle ciliegie vere dentro. Quando il commesso disse a Jagger che non avevano Cherry Coke, Jagger non voleva crederci ed esclamò: "Non avete Coke?" E Jimmy era in fila proprio dietro Jagger, disse: "You can't always get what you want." Non puoi sempre avere quello che vuoi. Per ricompensarlo di quello spunto, Jagger mandò una limousine a prendere il ragazzo per portarlo al concerto e così avrebbe continuato a fare negli anni, ogni volta che gli Stones tornavano a suonare da quelle parti, fino alla sua morte, avvenuta il 3 ottobre nel 2007. Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. You can't Ed erano i Rolling Stones. E adesso andiamo a parlare di Aquarius e Let the Sunshine In. È un singolo del 1969, costituito dal medley di due brani, interpretato dai The Fifth Dimension. La controcultura californiana, quella di Figli dei Fiori, è arrivata alla cultura di serie A attraverso il musical Hair, cioè capelli, del 1969, adattato per il cinema da Milos Forman con il medesimo titolo nel 1979, quindi 10 anni dopo, quando la fase hippie era ormai abbondantemente finita. La canzone Aquarius, scritta da James Rado, Jerome Ragni e Gert McDermott, era il tema principale del musical ed era eseguita dal suddetto gruppo, che sempre nel 1969 la inserì nell'album The Age of Aquarius, portandola al successo internazionale in una versione particolare, costituita appunto da un medley di Aquarius e The Flash Failure, meglio nota come Let the Sunshine In, facente parte della stessa opera. E adesso i Fifth Dimension con Aquarius. This is the dawning of the age of Aquarius. erano i Fifth Dimension con Aquarius. E adesso parliamo dell'ultima canzone della storia del 1969 e di Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival. Ancora loro. Uno dei, è ancora loro, è la settima canzone, mettiamo loro. Anche perché questo è il loro White Album, possiamo dire. Sì. Nel 69 sono esplosi. Uno dei capolavori di John Fogerty per i Creedence Clearwater Revival, anno 69 per l'appunto. Classico caso di canzone nata per raccontare una storia e che invece finisce per raccontarne un'altra. Fogerty aveva in mente il titolo Proud Mary, l'orgogliosa Mary. Era abituato a portarsi sempre dietro un librettino dove annotava versi possibili, ma soprattutto possibili titoli di canzoni. Da un titolo spesso nasceva un'idea e da un'idea una canzone, molte volte una grande canzone. Proud Mary era in cima alla lista. Così cominciò a pensare che potesse essere l'orgogliosa Mary e gli venne in mente una domestica. Scrisse i primi due versi, Left a good job in the city, working for the man every day and night. Ho lasciato un buon lavoro in città, lavorando giorno e notte per il mio padrone. I primi accordi però gli evocarono il suono dei battelli che solcarono il Mississippi e allora trasformò Proud Mary in una nave, anche se la protagonista rimane sempre una domestica. Il brano divenne un'immediata hit, ma contrariamente a ciò che si pensa non fu scritto sulla base dell'esperienza, perché Fogerty non era mai stato a New Orleans, anzi non aveva quasi mai lasciato i confini del suo stato. Soltanto nel 69 Proud Mary fu interpretata da 35 diversi musicisti. A tutt'oggi sono più di 100 le cover accreditate di questo classico. Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Tecnici sempre attentissimi, attenti proprio subito lì. era Proud Mary, sempre sul pezzo, sempre Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival, ed era l'ultimo brano di oggi, purtroppo anche l'ultimo disco della storia del rock del 1969. Infatti entreremo nella magica era degli anni 70 nella prossima puntata. Tanta roba alle scorse puntate, ma anche adesso, ragazzi, veramente tanta 1970. Roba. Sì, faremo tutto il 1970. Grandissimo. Raga, fa tutto. Tutto. Vabbè. Sei sicuro? Speriamo. Sei sicuro? Speriamo. Aspetta, che sempre, ancora un solo. Sempre che otto, non si senta il magico rumore della mano che un giorno spiegheremo. Aspetta, tergiversa, che ancora non so. Vabbè, i saluti un minuto mi ci vuole, dai, aspetta. Dai, abbiamo finito anche questa settimana, come abbiamo appena detto, settimana prossima inizieremo con il 1970. Ricordiamo come tutte le settimane la pagina Facebook All Time Rock and Roll Radio F Valdichiana. Da domani potete trovare sempre il contest con le 5 punti. Domani, bravo, verso venerdì. Verso venerdì. Sì, perché ci dobbiamo pensare. Ci vuole un po'. Il podcast invece domani. Il podcast domani, quindi sì. Se volete riascoltare la puntata, se vi è piaciuta o ve la siete persa, da domani sempre sulla pagina Facebook troverete il podcast di questa puntata. Ci salutiamo, io sono il Patro, accanto a me il Luke. Sì, ciao. Il Nanno. I due tecnici. Ovunque e dovunque. Il Bindo. E comunque. Col sonno te anche. Tanto sonno. Grande biondo. A settimana prossima, come ciao sempre, a tutti. Dalle 20.